24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ho avuto un attimo di incertezza perché volevo salutare Deborah Rosciani, ma c'è la sigla prima, mi dimentico sempre. Non vedi l'ora, la mattina, Deborah, di cominciare l'ora. A parlare Eccoci, con me. Deborah. Ciao, oggi, come annunciato, prima parliamo del diritto allo studio, un tema molto importante. Cosa fanno le regioni, non tutte le faremo oggi, per garantire il diritto allo studio per le fasce più. Sì, in realtà il nostro obiettivo è stato preciso, al di là del fatto che abbiamo voluto raccontare, lo faremo stamattina, quello che succede in Calabria, per esempio, in Emilia Romagna e anche in Lombardia, quindi una regione del nord, una del centro Italia e una del sud. E l'obiettivo è quello di far capire proprio alle famiglie che molto spesso ci sono queste opportunità e quindi è bene coglierle. E allora quali sono anche i criteri di scelta degli studenti meritevoli? Sentiremo, come vi ripeto, l'esperienza della Calabria. Saluto e ringrazio di essere con noi il vicepresidente della regione, Domenico Cerzosimo, vicepresidente o anche assessore, perché lei ha anche la delega all'istruzione, giusto? Sì, è giusto, ma non sono assessore, ma la delega. È la delega. Per conto del presidente. Esatto, infatti, perché non si può fare il vicepresidente e l'assessore contemporaneamente. Grazie di essere con noi. Grazie anche a Giovanni Sedioli, che è invece assessore alla scuola, formazione professionale, università e lavoro della regione Emilia-Romagna. Sedioli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E infine andiamo al nord. Gianni Rossoni, vicepresidente della regione Lombardia, anche in questo caso con delega all'istruzione, formazione e lavoro. Rossoni, buongiorno anche a lei, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Allora, come dicevo, ci facciamo un giro in tutta Italia per spiegare ed illustrare per quanto possibile ai nostri ascoltatori quelle che sono le forme di intervento messe in campo dalle regioni per sostenere il diritto allo studio. I programmi sono diversi anche a seconda delle risorse finanziarie di cui le regioni dispongono. Qualche regione distribuisce solo le risorse che lo Stato mette a disposizione, altre regioni invece fanno uno sforzo in più, le integrano, alcune regioni invece tra l'altro hanno già annunciato che sono un po' in difficoltà e magari dal prossimo anno potrebbero rivedere anche la misura appunto delle risorse finanziarie messe in campo per questi interventi. Vedremo se è il caso della Calabria, dell'Emilia Romagna e della regione Lombardia. Complessivamente l'assegno staccato per il 2008 dalle regioni è di 360 milioni di euro, i fondi statali sono 258 milioni. Cominciamo con Rossoni, con la Lombardia. In Lombardia c'è una dote di merito rivolta agli studenti che va da 300 a 1000 euro e vale sia per le scuole statali che per quelle... 500 mila euro. Da 500 a 1000 euro, prima informazione. 500, sì. Terza media, prima, seconda, terza e quarta superiore 500, con un reddito di 20.000 euro, alla quinta superiore 1.000 euro senza reddito, per i 100 e lode. Quindi ecco, per fare un quadro preciso della situazione, Rossoni, come si fa ad accedere a questo beneficio? Perché a parte il fatto che ovviamente le regioni così danno un po' la misura di quello che possono erogare, il tema è anche capire come poi le famiglie possono accedere a questi benefici. Intanto come avviene l'informazione? La regione contatta le scuole, avviene a livello provinciale con i provveditorati, come si fa ad avere informazioni su questi incentivi? La regione è aperto proprio adesso la possibilità di, come dire, comunicare attraverso via internet o anche attraverso le scuole, la possibilità di prenotare con lo strumento nuovo della dote sia risorse che sia la dote scuola che è la dote per la libertà di scelta delle famiglie o la dote permanenza che è quel sussidio che raggruppa in sé quelle che erano prima i rimborsi dei libri di testo, del trasporto delle mense, in un unico strumento che abbiamo chiamato dote scuola, dote permanenza. Anche qui per le scuole statali è 120, 220 o 320 euro nell'anno scolastico. E nello stesso tempo i ragazzi nel mese di giugno, le famiglie nel mese di giugno, perché apriamo l'altra finestra, si è aperta la finestra per la prenotazione delle doti da febbraio ad aprile per l'anno 2009-2010, noi contiamo di dare queste risorse già a settembre, quindi dare il voucher alle famiglie da poter spendere per l'acquisto dei libri di testo o comunque per pagare la mensa o per pagare il trasporto, e poi a giugno apriamo un'altra finestra proprio per dare la possibilità ai ragazzi di dire qual è stata la loro valutazione finale per poter accedere alla dote di merito che dicevo prima, che varia secondo i tipi di scuola e anche gli ordini di scuola. Tra l'altro, a proposito di dote, poi ci ritorneremo, Rossoni, la regione Lombardia ha il pacchetto finanziario più consistente. Sono circa 200 milioni di 200 euro, milioni una dote di euro che abbiamo già deliberato nel mese di gennaio, esattamente il 14. Andiamo alle altre regioni. Domenico Cerzosimo, vicepresidente della regione Calabria, fino ad ora per ottenere il buono da 1.200 euro, scriveva il Sole 24 Ore lunedì scorso, bastava avere distinto in pagella le medie e 8 alle superiori. È vero che diventerete un po' più severi? Ma quest'anno, lo scorso anno abbiamo fatto un'esperienza, l'abbiamo chiamata una fiammata, volevamo mettere in agenda la scuola, che purtroppo in agenda non era in Calabria, e quindi abbiamo fatto una cosa straordinaria potendo utilizzare una dote finanziaria considerevole che ci arriva dalla Comunità Europea. Abbiamo fatto un discorso molto semplice: ogni nuova politica per conquistare attenzione ha bisogno di una piccola spinta, di un big push, direbbe un economista, diciamo. Abbiamo bisogno di fare una grande spinta. Abbiamo preso 100 milioni di euro, abbiamo detto che vogliamo investire nella scuola, in tutta la filiera formativa, questi 100 milioni, a partire dai bambini neonati fino ad arrivare a coloro che fanno il dottorato di ricerca e anche il post dottorato, con l'idea di galvanizzare, diciamo, questo settore che era un po' seduto. E quindi abbiamo fatto moltissime azioni, abbiamo premiato. Come arrivate alle famiglie, assessore? È arrivato in modo molto semplice, attraverso le scuole. Abbiamo fatto un piccolo bando, un avviso per le scuole: tutti i ragazzi che avevano almeno ottimo nelle scuole medie oppure la media dell'8 nelle scuole superiori avevano diritto a un buono di 1.200 euro per l'autoapprendimento, ovvero sia per acquistare il computer, il software, i libri, l'abbonamento alle riviste, il teatro, il cinema. Cioè, abbiamo provato ad investire nei cosiddetti ragazzi migliori. E lo stesso stiamo facendo per i docenti: abbiamo messo su una teacher card e i docenti una più giovani card. Più motivati. Che hanno fatto, ecco, ma queste risorse, vicepresidente, arrivano tutte alle famiglie, oppure può capitare che magari, non lo so, la regione stanzi un pacchetto, poi le famiglie non lo vengono a sapere e rimangono lì? Le scuole avvisano tutte le famiglie, ogni bambino e ogni famiglia conosce di questo, perché attraverso le scuole conoscono il voto, la media di questi ragazzi, e dunque sono obbligate ad avvisare tutte le famiglie, quindi non c'è nessuna famiglia che non sa. Grazie, devo andare all'Emilia Romagna perché abbiamo appena 2 minuti di tempo, vado all'assessore Sedioli. Qui per quello che riguarda questa regione c'è necessità di avere una media del 7 alle superiori per ottenere una borsa di studio di 730 euro. Assessore, come si fa a prenderli? Dunque, intanto bisogna precisare che se uno ha la media del 7 ha i 730 euro, ma un assegno è comunque disponibile se si è nelle condizioni di reddito previste. Quindi la media è una condizione di miglior assegno, non è una condizione di inclusione nell'assegno. Quindi noi abbiamo assegni di 584 euro per chi non ha la media del 7 e di 730 per chi ha la media del 7. Ecco, come raggiungete voi invece le famiglie che potenzialmente hanno diritto ad avere questo anche piccolo contributo extra, no? Nell'ambito del budget familiare, sì, che infatti, fa sempre comodo? I fondi di questo tipo sono in gestione alle province, che si avvalgono ovviamente della collaborazione con le scuole, e l'informazione è fatta punto a punto su tutta la popolazione scolastica. Devo aggiungere che però qui in questa regione ci sono 3 forme di diritto allo studio: uno, l'erogazione diretta, diciamo, i benefici individuali, borse di studio, i contributi per gli acquisti di libri di testo e gli interventi per accesso e frequenza, che sono quelli legati alla mensa scolastica, ai trasporti e ai supporti per disabili. Sono 3 procedure diverse. Ecco, 3 procedure diverse, assessore, che purtroppo questa mattina non riusciamo a spiegare, però l'obiettivo era di far capire che a dispetto delle difficoltà in cui navigano molte amministrazioni locali, lo sforzo c'è, per cui molto spesso cerchiamo anche di individuarle queste opportunità e magari spingiamo anche i nostri ragazzi a studiare un po' di più, perché anche con il merito si riesce poi ad andare avanti nel percorso scolastico in maniera un po' più serena dal punto di vista economico. Alessandro, io ho terminato. Grazie, allora tra poco ci ritroviamo, o meglio no, non sì, ci ritroviamo, però alle 12 tu alle 12 qui. Io con Salvadanaio mi occupo di condomini e condomini morosi e in difficoltà con il pagamento delle rate. E quando ci sono condominio, questi argomenti, ma sai, l'ho fatto anche a Soldi d'Intorno e lo porto anche a Salvadanaio. No, no, no, sì, ma è giusto, è giusto, sempre per essere agguerriti, quando si parla di condomini e condomini. Ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Nessuna tensione con Confindustria, dice il presidente del Consiglio Berlusconi, replica così alla presidente Emma Marcegaglia, che aveva chiesto soldi veri contro la crisi. Abbiamo dato soldi verissimi per sostenere interi settori industriali, per esempio l'automobile. E ieri in TV da Fabio Fazio è riapparso Romano Prodi. Potevo andare avanti, ma il mio governo è stato fatto cadere, ha ricordato Prodi. La scintilla, l'annuncio di Veltroni di correre da solo col PD. Non ebbi modo di pensare, ha detto Prodi. Ricordo che si affacciò Mastella nel mio ufficio e urlò: se volete fare fuori me, sono io che faccio fuori prima voi. La cronaca: un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato aggredito da un branco di cani randagi in una frazione del comune di Scicli, in provincia di Ragusa. Lo stesso branco di cani aveva aggredito poco prima un altro bimbo di 9 anni rimasto ferito e un 45enne. Tra l'altro vi ricordo che di questo tema parleremo tra poco, alle 8.45. Infine il calcio: l'Inter nel posticipo batte 2-0 la Fiorentina con una doppietta di Ibrahimovic e mantiene 7 punti di vantaggio sulla Juventus. Nel finale di partita è stato anche espulso Mourinho. Terzo il Milan, che vince 5-1 a Siena con Inzaghi che segna 2 volte e raggiunge il traguardo dei 300 gol ufficiali in carriera. 2-2 tra Sampdoria e Roma, impresa del Chievo, 3-0 all'Olimpico contro la Lazio. Gli altri risultati: Atalanta-Torino 2-0, Palermo-Lecce 5-2, Udinese-Catania 1-1, Regina-Napoli 1-1. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato oggi proprio alle piccole imprese. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Sono molte le piccole aziende e gli esercizi commerciali che rischiano di chiudere e tanti pagano, è quasi un paradosso, la virtù di aver fatto degli investimenti e di aver creduto nel proprio futuro. L'Italia ha più piccole imprese degli altri paesi. Solo nel manifatturiero sono 500.000, il doppio della Germania, 4 volte il Regno Unito. Aiutarle si può e si deve con un fondo di garanzia che li sorregga nel difficile rapporto con le banche, ma non solo. Va alzato il livello di compensazione fra crediti e debiti fiscali, realizzata una maggiore deducibilità degli interessi passivi, detassati gli utili reinvestiti, ma è utile anche la proposta presentata in questi giorni da Matteo Colaninno del Partito Democratico di una franchigia totale per i soldi che dai conti correnti personali ritornano in azienda, con l'obbligo di tenerli per almeno 5 anni. Soldi magari riportati in Italia, una volta tanto. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore, ci ritroviamo domani mattina. Sono le 8.35 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Allora, oggi più che un nome è il detenuto numero 61272054, veste una divisa marrone invece che gli abiti firmati solidi, ha una casa di 2,5x2,8 metri quadri invece della residenza newyorkese da 450 metri quadri. Insomma, la sua cella, oggi qualcuno ha fatto notare, è più piccola del guardaroba del suo attico dove abitava. Non c'è male come contrappasso dantesco per Bernie Madoff. Qualcuno dice contrappasso dantesco anche perché davvero incarna un diavolo moderno. Avrebbe truffato, ha truffato, si è detto colpevole qualche giorno fa ed è in carcere, per una stima di 50 miliardi di dollari. Ha rubato un po' a tutti, a migliaia di persone, amici, persone comuni, persone famose, fondazioni religiose, vecchi, bambini, uomini, donne. Ha truffato soldi davvero per tutti. Io saluto il professor Giulio Sapelli. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Lei insegna storia economica alla Statale di Milano. Come contrappasso dantesco, sì, quello di oggi di Madoff, già insegna qualcosa? Beh, insegna innanzitutto che nel sistema giuridico americano e nel capitalismo nordamericano si fanno molti errori, ma poi si paga. Senta, ma la prima cosa, che senza giustizialismi bisogna imparare. Riconoscere questo. Madoff rischia fino a 150 anni di carcere. Si è detto colpevole, ha truffato, ripeto, qualcuno dice sui 50 miliardi di dollari. Quanto è colpevole? Le faccio questa domanda provocatoria. Quanto è colpevole Madoff e quanto è anche, se si può dire, non colpevole allo stesso modo, ma insomma quanto ha inciso anche l'avidità di magari chi ha visto dei guadagni facili, tanti subito, e si è affidato insomma a questo truffatore? Ma questa è proprio la domanda giusta, secondo me, per capire il caso. Infatti, se si guarda, Madoff ha soprattutto truffato all'inizio i suoi amici, no? Coloro con cui viveva gomito a gomito. E questo, secondo me, fa dire due cose. Beh, uno, era convinto che questo schema Ponzi, il cosiddetto schema Ponzi, cioè questo schema della truffa, in un sistema in cui tutti ormai avevano assunto, anche psicologicamente, antropologicamente, il paradigma di arricchirsi subito, indefinitivamente, beh, lui voleva dire che questa cosa era convinto che durasse all'infinito, cioè che fosse un meccanismo che si autoalimentasse, perché sennò non avrebbe affrontato il pericolo di una sanzione morale, no? di una caduta dell'autostima che aveva verso queste persone. Si pensi, per una persona come lui che viene dal mondo ebraico, tantissime fondazioni ebraiche, addirittura il premio Nobel Weizer, no? aveva affidato a lui i suoi risparmi. Sì. E tra l'altro io ho letto proprio le dichiarazioni che ha fatto, premio Nobel, insomma, sopravvissuto alla Shoah, si è detto Elie Wiesel uno che ha fatto del rispetto, della capacità di superare i problemi. Sentite cosa ha detto. Ha detto: merita di finire in una cella di isolamento con uno schermo. Su quello schermo dovrebbero mostrargli le immagini delle sue vittime, una dopo l'altra, senza fine, e una voce di sottofondo dovrebbe ripetergli: guarda cosa hai fatto a questa vecchia, guarda cosa hai fatto a questo bambino. Insomma, non c'è male. Riflette, diciamo, come rabbia. Questo, insomma, questo riflette un Dio vendicatore che non è il mio. Ecco, io penso sempre nel fatto che la pena debba riscattare. Non debba. Vabbè. Quindi, comunque, sì, è una frase che esprime bene questa. Cioè, c'era convinti che non finisse mai la cuccagna. E nello stesso tempo questo fatto che queste persone si fanno ingannare in un modo così stupefacentemente facile, no? E tra l'altro io voglio immagini in che condizioni è la vecchietta che si fa girare i titoli. Immagino di sì. Io intanto voglio salutare anche Vittorio Malagutti. Buongiorno, ciao Vittorio, collega inviato dell'Espresso. Tra l'altro con Mario Gerevini e Paolo Biondani scrisse anche un bellissimo libro, Capitalismo di rapina, più sull'economia italiana, edito da Chiare Lettere. Tu, Vittorio, hai scritto anche di Madoff sull'Espresso di recente. Innanzitutto è questa la straordinaria semplicità di questa truffa. Si è parlato di questo schema Ponzi. Ponzi era un italiano, che era andato negli Stati Uniti, truffò tantissimo. Che vuol dire questo schema Ponzi? Beh, lo schema Ponzi è la truffa più semplice, è la banalità estrema. Semplicemente si tratta di rimborsare, o meglio di far fruttare il denaro dei clienti con i versamenti dei clienti seguenti. Quindi si crea un circolo virtuoso o vizioso, a seconda da che punto lo si guardi, per cui ogni cliente nuovo che entra porta dei soldi, e questi soldi, invece che essere messi a reddito, servono per fornire i rendimenti dei clienti che già sono all'interno dell'investimento. Solo che i rendimenti promessi sono rendimenti molto molto alti, ma Madoff diceva in fondo: ma io mettevo i soldi in banca. Cioè faceva quello che facciamo tutti, io prendevo i soldi, li mettevo, promettevo di investirli, promettevo di dare dei rendimenti, ma io li mettevo in banca sostanzialmente, facevo quello che fanno tutti, e poi con gli interessi ovviamente minori delle banche, intanto che mi arrivavano gli altri ripagavo i primi, ma poi è chiaro che tutto doveva crollare. E così è crollato, Vittorio. Effettivamente è crollato. Quello che è stupefacente e di cui ancora si sa ben poco, per non dire nulla, è come è stato possibile che quest'uomo sia riuscito a truffare tutti, quantomeno dal 1990, ma molto più probabilmente addirittura dagli anni 80. E quindi qui, al di là poi dei riti così penitenziali, per cui il dannato di turno viene schiaffato in carcere per due secoli, probabilmente si tratta anche di chiedersi di quali complicità ha goduto Madoff, a quali livelli, e purtroppo non ci sarà un processo vero e proprio per stabilire questo, perché Madoff si è dichiarato colpevole immediatamente, quindi non ci sarà un vero processo, anche se le autorità americane hanno assicurato che si continuerà a investigare quantomeno per recuperare dei soldi. Ricordiamo che in questo momento è stato recuperato meno di $1 miliardo sui 67 miliardi, secondo le ultime stime, che Madoff si sarebbe preso, insomma, avrebbe fatto scomparire. Professor Sapelli, lei sulla questione dei mancanza di controlli, cioè com'è stato possibile tutto questo che Madoff dica ma io prendevo e mettevo i soldi in banca e nessuno ha controllato? Beh, innanzitutto perché anche su questa cosa qua della mancanza di controlli si insiste secondo me un po' troppo, cioè non si può controllare migliaia di società dall'alto. Innanzitutto tutta questa cosa è avvenuta, se mi permettete, con la complicità dei fregati, no? Perché questo è un problema vero. Insomma, lo vediamo anche nelle banche, no? Le banche danno dei crediti, quando devono dare dei crediti a dei debitori elevatissimi, i controlli sono pochissimi. Quando devono dare dei crediti a un povero Cristo, diciamo, l'ammazzano di controlli, applicano Basilea 2, ecco, quindi due pesi e due misure. Lì probabilmente bisogna capire cosa facevano le banche, se c'erano delle complicità dal punto di vista della tecnostruttura bancaria che sapeva di questo schema Ponzi. Io personalmente, se devo dire la verità, più che a questa questione dei controlli eccetera, penso proprio a una caduta verticale di, diciamo, dei valori morali, sia di Madoff sia di coloro che gli prestavano i soldi, cioè quelli che erano fuori dal tribunale ad attenderlo, a insultarlo, c'era gente che piangeva, c'era gente che era disperata. Lei prova una mezza compassione verso queste persone? Sì, ma per quelli che erano fuori lì dai tribunali devo dire sì, provo mezza compassione, ma provo una sincera compassione. Non provo nessuna compassione per la signora di Banca Medici, no? Che mi viene a dire che lei è stata truffata da Madoff. Ecco, questo una persona che sa tutto del sistema finanziario, eccetera, che, ecco, bisognerebbe scavare che cosa c'era dietro questa assoluta fiducia. Ecco, insomma, quindi insomma, non si può controllare tutto, non c'è riuscita neanche l'Unione Sovietica col Gosplan, no? Cosa volete controllare, milioni di persone che cambiano i loro denari davanti a un illusorio modello? Intanto Vittorio Malagutti, questa vicenda finirà, che vabbè, per Bernie Madoff, appunto, abbiamo detto, per il rigore americano ci saranno le porte del carcere che credo non si riapriranno mai più, insomma, o meglio, vediamo, insomma, anche la persona anziana, vedremo poi in futuro, però a giugno, credo il 16 giugno, ci sarà la condanna, cioè la sentenza con gli anni. È un ex bagnino Madoff. Sì, beh, è il classico self-made man, no? L'uomo che è partito dal nulla quasi, e poi grazie ai contatti, le amicizie, la rete, assicurate soprattutto dalla comunità ebraica newyorkese e poi addirittura nazionale, è riuscito a farsi strada e a costruirsi l'immagine del grande consulente. Io però, a proposito dei controlli, che mi sembra un tema abbastanza importante, mi limitavo a segnalare che al di là dei poveretti avidi che hanno dato i loro soldi sperando di poter guadagnare a vita il 46% l'anno, che era il rendimento medio che Madoff offriva, vorrei segnalare, a proposito dei controlli, che già diversi anni fa c'erano stati almeno due signori che avevano lavorato fianco a fianco con Madoff, che si erano recati alla SEC e avevano illustrato per filo e per segno i loro dubbi che poi col senno di poi sono rivelati assolutamente giustificati, fornendo materiale, prove, su cui la SEC come minimo avrebbe dovuto aprire un'inchiesta. Certo. Invece, purtroppo, per qualche imperscrutabile motivo, la SEC ha deciso di non indagare. E allora, forse così, i discorsi generici sui controlli che non controllano di fronte a dei fatti precisi diventano un pochino più stringenti, allora le domande continuano a restare senza risposta. E sicuramente al momento, con un signore che va in tribunale e dopo 12 secondi si dichiara colpevole, ecco, non è il modo migliore, non è il modo migliore per poi scoprire capire che cosa c'è sotto, insomma. È vero che alcuni dei risparmiatori avidi e truffati hanno fatto presente, hanno chiesto che ci fosse un processo vero e proprio, ma il giudice si è limitato a dire continueremo a investigare, ma il processo non ci sarà. Cioè ci si limita a dire, a prenderlo, a mettere in carcere, dargli una sentenza esemplare, ma magari non si scoprirà ciò che stai dicendo, tutto quello che c'è sotto. Io vi ringrazio, grazie Vittorio Balaguti dell'Espresso, così come il professor Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano, per essere stati con noi. Allora, le 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino, come abbiamo sentito anche nelle notizie, c'è stata una vicenda drammatica. Ieri un bambino di 10 anni è stato ucciso, aggredito da un branco di cani a Scicli, in provincia di Ragusa. Io saluto il sindaco di Scicli, Giovanni 25. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Senta, al di là ovviamente del dramma che ha colpito, la domanda che si fanno tutti, visto che oltre questo ragazzino aggredito, prima era stato aggredito un bambino di 9 anni, poi un signore di 45 anni, loro se la sono cavata fortunatamente, com'è possibile che sia potuta accadere questa tragedia? Questi cani perché erano così liberi? Ebbene, è domanda da $1 milioni nel senso buono della parola, perché l'imprevedibile è, io posso anche dire, una superficialità al problema, in generale, non nello specifico. Questa volta è toccata al territorio di Scicli, ma i fatti che si susseguono sono sotto gli occhi di tutti. Mi sembra che siamo al settimo, ottavo caso nell'arco di una decina di mesi che si verificano. Però lei, sindaco, sa che la legge impone ai comuni, quindi ai sindaci, di avere un controllo dei canili per i cani randaggi. Cioè questi cani chi li aveva? Sicuramente sì, questi cani alla procura li aveva affidato a un privato cittadino, perché non si tratta di cani randaggi, questo è bene precisarlo, questo era un mecenate, un animalista che teneva nella sua proprietà questi cani. E nel mese di agosto dello scorso anno la Polizia Municipale del mio comune ha inviato, assieme ai carabinieri e alle forze dell'ordine, hanno inviato un esposto alla procura di Modica, dove segnalavano che c'era questo fenomeno non indifferente. Perché non era la prima volta che questi cani nella zona aggredivano? No, non è che dobbiamo costruire, le segnalazioni si sono avute nel mese di agosto dello scorso anno. Da allora noi non abbiamo avuto, come comune, come polizia municipale, non abbiamo avuto alcuna segnalazione, per cui la procura ha ritenuto bene affidarle al proprietario, perché in effetti era un proprietario. Poi l'imprevedibile sta sempre dietro l'angolo, che poi mi venga a dire il discorso dei canili ha pienamente ragione, cioè noi siamo indietro anni luce, e questo qua non costa a me dirlo, la mia amministrazione si sta cercando di creare un parco canile per la disponibilità del proprio territorio, del mio territorio. Ciò nonostante non abbiamo una convenzione per prevenire il randagismo attraverso le associazioni che operano nella zona. Noi appostiamo una piccola somma, eccola la dove sì. Cioè non ci sono i soldi per fare un canile, non avete il canile. E guardi, io glielo posso dire tranquillamente, noi appostiamo 15.000 euro l'anno per queste società che poi noi chiamiamo il momento in cui c'è qualche cane da prendere che lo portano in canile. Senta sindaco, ma la persona tra l'altro che aveva questi cani ieri è stata arrestata per omicidio colposo, leggeva addirittura sul Corriere della Sera che pare avrebbe scatenato i cani verso gli agenti che sono... Questo tempo che trovo, non essendo presente... No, vabbè, ho capito. Sta benissimo che riusciamo a costruire anche sulle tragedie, a mio modo di vedere questa è una tragedia vera e propria, una tragedia annunciata. Perché siamo sempre là, l'assenza di leggi, anche se le leggi ci sono molto superficiali. Perché dice una tragedia annunciata? Però mi scusi sindaco, se lei è primo cittadino di questa città, dice una tragedia annunciata, cioè lo sapeva, non avete i soldi per il canile, e però accidenti, cioè c'è morto un bambino di 10 anni. Mi riferisco in generale su tutto il territorio nazionale, sono delle tragedie, e questo è bene che si dica. Cominciamo a parlare, a preventivare l'abbattimento anche degli animali, qualora si ritengono che sono animali pericolosi. L'abbattimento. Questo non esiste in Italia. L'abbattimento, questo è vero. Cominciamo a prevedere che il governo nazionale si attivi poi attraverso gli enti locali ad erogare delle somme consistenti, ad obbligare e metterli in condizione le amministrazioni di costruire i canili. Ecco, queste sono le inefficienze. Ecco dove si sta il discorso. Però mi scusi, sull'abbattimento è vero, non c'è in Italia, però la costruzione dei canili, lei dice obbligarli, c'è una legge, più di una legge, la legge andrebbe rispettata, cioè lei dice non ci sono i soldi, ma la legge dice che ogni comune deve fare un canile, deve prevenire il randagismo, deve attrezzarsi, insomma bisogna trovare i soldi da questo punto di vista. Non si abbandonano gli animali, non è che un randaggio nasce il randaggio. Ho capito. Ha capito benissimo. Allora, forse un mea culpa lo dobbiamo fare da singoli cittadini. Sì, ma questo sì. Tra l'altro, mi scusi, sindaco, mi lasci salutare Gaspare Petrantoni, che è medico veterinario della Società Italiana Scienze Comportamentali Applicate, la SISCA, siciliano. Buongiorno, dottor Petrantoni. Ha sentito? Io le chiedo subito la questione dell'abbattimento, perché è vero, il sindaco dice perché non prevedere l'abbattimento. In Italia non è previsto, è uno dei pochi paesi. È una proposta un po' obsoleta se noi guardiamo l'ordinanza Martini recente, che va nel senso opposto, nel senso che avendo evidenziato che la responsabilità è nella conduzione dell'uomo, sia esso proprietario di cane, sia esso l'amministrazione pubblica, prendersela con colui che è vittima del modo di gestire non solo il cane ma tutte le questioni di ordine sociale non fa vedere l'origine del problema. Come invece ha detto giustamente il sindaco, è una questione sociale che coinvolge gli uomini. Il cane non nasce a randaggio, ma è frutto di una cattiva gestione, di una cattiva responsabilità dell'essere proprietario di cani. Ed ecco che da là nasce l'abbandono e il problema per i sindaci di dover spendere tanti soldi per mantenere cani a vita nei canili inutilmente. Quindi le leggi ci sono anche, ma sono superficialmente applicate e manca il sistema dei controlli come in qualunque applicazione normativa in qualunque altro settore del nostro paese. Senta, sindaco, abbiamo un minuto, ma questa persona che aveva tutti questi cani ne aveva tanti, no? Credo una cinquantina, affidati dalla procura di Modica. Questa cosa lei non inquietava? Voglio dire, io non lo so, non voglio, ha figli anche lei, sindaco? Assolutamente, ma io ho figli anche una caglietta dentro. Sì, ho capito, ma che c'entra? Voglio dire, nel senso che i figli frequentavano magari anche quella zona, cioè non la preoccupava avere una persona che aveva 50 cani e lei sapeva, dice una tragedia annunciata. Assolutamente, scaturiva le forze dell'ordine, noi non siamo proposti, il momento in cui non ci sono segnalazioni, nessuno ci dice più di tanto, avevamo affidato tutti gli altri alla procura, per noi non era un problema, né tantomeno guardi che tutti i giorni i cani avevano una recinzione. Per cui non è che erano in balia di loro stesso, li vedevi tutti. Evidentemente è una recinzione che non ha tenuto purtroppo in questa occasione e non solo. Io comunque, sindaco, la ringrazio, mi devo fermare qui. Sia lei, sindaco di Scicli Giovanni 25, e il medico veterinario Gaspare Petrantoni, vi ringrazio per essere stati con noi, insomma, a parlare di questa tragedia. Purtroppo è vero, non è l'ultima, è solo l'ultima in ordine di tempo. Ci fermiamo, tra poco Giuliano Ferrara, ospite Sandro Bondi, ministro della cultura, e ringrazio Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Domani.